Perfetto Giorno di Simone Spezia. Manovra, stanziati 60 milioni per chi cura i familiari a casa, sconto per tasse e affitti delle librerie. Scontro sulle cosiddette fake news, BuzzFeed e New York Times imbeccati da Renzi, dicono i 5 Stelle. Qualità della vita, Belluno la migliore, balzo di Ascoli Piceno, caduta verticale per le città liguri. Doppio esonero in Serie A, il Milan manda via Montella per Gattuso, il Sassuolo cambia buchi con Iachini. Fidanzamento nella casa reale britannica, Harry sposerà l'attrice americana Meghan Markle in primavera. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la pagina Facebook di Radio 24 e quella di Effetto Giorno, dalle quali andiamo anche in diretta video e se volete, come sempre, potete commentare anche là, dall'altra parte del vetro. Paolo Corleoni in regia, Laura Faggin in assistenza e in redazione, iniziamo dunque e iniziamo dalla manovra. 60 milioni di euro in 3 anni per chi, in maniera non professionale, si prende cura dei familiari gravemente malati. È quanto prevede un emendamento alla manovra approvato dalla Commissione Bilancio del Senato. Il sostegno sarà destinato alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto. L'aiuto sarà valido anche per chi assiste un familiare fino al terzo grado o un affine entro il secondo grado, non autosufficiente o invalido. In arrivo anche uno sconto fiscale fino a 20.000 euro per tutelare le librerie. L'emendamento alla manovra prevede in particolare un credito d'imposta su IMU, TASI, TARI o sull'eventuale affitto del locale. Nel corso del fine settimana la Commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera anche allo slittamento della web tax al 2019 e all'emendamento del governo sulle pensioni che esclude 15 categorie di lavori gravosi dall'innalzamento a 67 anni dell'età pensionabile. La Commissione Bilancio del Senato punta a chiudere l'esame della manovra tra stasera o domani per poi portare il testo in aula mercoledì. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma. E veniamo alla classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore, alla quale oggi dedichiamo una giornata speciale. Radio 24 Day. Dunque Belluno, la città nella quale si vive meglio, la provincia nella quale si vive meglio, che supera Aosta, vincitrice dell'anno scorso, arco alpino al top nella classifica 2017, ultima a Caserta, e quel che ne emerge è un'Italia ancora molto divisa. È un'Italia che viaggia a velocità diverse anche guardando alle regioni, quella che emerge dal rapporto 2017 sulla qualità della vita. I dati sono calcolati su base provinciale, ma giocando con la statistica ne esce una mappa che racconta 4 macro aree: nord-ovest, nord-est, centro e mezzogiorno. Sommando i punti di tutte le 110 province, assegnando 110 punti alla prima e un punto all'ultima, al primo posto si piazza il nord-est con una media pari a 800 punti, alle sue spalle il nord-ovest con 640, il centro 580 e ben lontano, fanalino di coda, il mezzogiorno con 220. Segno che il divario tra nord e sud si allarga. Un dato confermato guardando alle singole regioni. A segnare la performance migliore è, non a caso, il Friuli Venezia Giulia nel nord-est. Trieste guadagna 4 posizioni, Gorizia 10, Pordenone 4. Solo Udine arretra di un posto, ma resta nella top 10. A trascinare più in basso il nord-ovest ci pensa la Liguria, con le 2 province che fanno registrare le performance peggiori. Savona perde 34 posizioni, Genova 27 posti. Il record negativo del sud si commenta da solo. Nelle ultime 10 posizioni, oltre a Carboni Iglesias e Reggio Calabria, si piazzano solo province di Campania, Avellino, Salerno, Napoli e Caserta, e Puglia, Foggia, Lecce, Brindisi e Taranto. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come avete sentito, sono precipitate alcune città liguri, alcune province liguri. Molto pesante il risultato di Genova, a meno 24 posizioni, meno 36 posizioni per la provincia di Savona, ed è proprio con la sindaca di Savona, Ilaria Caprioglio, che parleremo nella seconda parte della trasmissione, nel nostro Giro d'Italia. Veniamo alla politica con i due fronti, il PD e l'opposizione. Iniziamo dal centro-sinistra. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Matteo Renzi, chiudela Leopolda, dando via di fatto la campagna elettorale come leader del PD, ma anche come candidato premier, rinuncia sul futuro il segretario Dem e sugli 80 euro anche per le famiglie con i figli, da partito personale a partito squadra, ma basta congresso permanente, dice, e non dimentica poi che per vincere c'è bisogno di una coalizione. Renzi quindi promette pari dignità a chi vorrà allearsi con il PD, e sulla coalizione interviene anche Graziano Del Rio, avverte Giuliano Pisapia, la potenziale alleanza si costruisce senza veti, ovvero senza dire no anche ad Angelino Alfano. Su MDP Del Rio è convinto che più di così Renzi non poteva fare, e proprio i democratici e i progressisti partono per una nuova proposta, chiamano a gran voce come leader Pietro Grasso, una sorta di nuova Cosa Rossa. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Dall'altra parte si continua a ragionare sulle alleanze nel centrodestra, mentre ci si scontra sulle cosiddette fake news o reti di fake news tra Movimento 5 Stelle e PD. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. Non rinuncia a colpi di scena Silvio Berlusconi, più che mai perno delle strategie del centrodestra. L'ex cavaliere guarda allora al voto di primavera ed, esattamente come nel 94, vede un pericolo per il nostro paese, non quello comunista di 23 anni fa, ma dei 5 Stelle che, dice Berlusconi, non hanno né arte né parte e si fanno guidare da un vecchio comico e da un esperto di comunicazione. Berlusconi pensa quindi ancora a se stesso come possibile candidato premier, e se la sentenza di Strasburgo non arrivasse o fosse negativa, lancia un nome inedito per Palazzo Chigi, il generale dei carabinieri Leonardo Gallitelli, nome che dai primi commenti sembra però spiazzare gli alleati di centrodestra, come i discorsi di Berlusconi sulla futura composizione di un suo governo. Su entrambi i temi sentiamo allora Salvini, intervenuto questa mattina a Radio 24. Questa non l'avevo mai sentita, ma così come io, quando ci siamo visti a Catania, ho detto: scusa Silvio, ma non continuare a dire sta roba dei ministri. A, non ne abbiamo mai parlato. B, è l'ultima delle cose che gli italiani sono interessati ad ascoltare. Sul tema fake news intanto interviene dai 5 Stelle Di Maio, che dice: a me preoccupa più il voto di scambio che le bufale, ma questo non è un tema da sottovalutare. È tutto, linea allo studio. E grazie dunque anche a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Fiat Chrysler rischia in Francia una multa che potrebbe arrivare fino a 9,62 miliardi di euro a seguito dell'indagine sulle emissioni dei suoi veicoli diesel. È quello che riporta il quotidiano francese Le Monde, che rivela alcuni dettagli dell'inchiesta sul Dieselgate che è stata condotta da Parigi. L'ammontare figurerebbe nel verbale di infrazione della Direzione Generale Concorrenza e Repressione Frodi, al quale verbale Le Monde avrebbe avuto accesso. Andiamo a Bali, le massicce evacuazioni per l'eruzione di un vulcano. Qua la situazione è tranquillissima, la gente evacuata è la gente dei villaggi vicini limitrofi al vulcano. Io sono siciliano, ho l'Etna di fronte a casa mia, non è che ogni volta che erutta, che esce il fumo, andiamo in allarme, è regolare comunque al momento. Questa è la testimonianza di un ristoratore italiano a Bali, Massimiliano Russo. L'allarme sull'isola era scattato martedì scorso dopo l'eruzione del vulcano Agun. Cenere e fumo hanno raggiunto in cielo i 4.000 metri, compromettendo la circolazione aerea, e per questo le autorità indonesiane hanno deciso di chiudere l'aeroporto per tutta la giornata. Evacuate migliaia di persone, ma solo da una zona a rischio entro 10 km dal vulcano. A Bali però è in corso la stagione delle piogge, la colata di fango e cenere vulcanica mista ad acqua potrebbe ingrossarsi e diventare rischiosa. Il vulcano Agun resta infatti temibile, con i suoi 3.000 metri d'altezza, ha eruttato l'ultima volta nel 63, ma in quell'occasione provocò circa 1.600 vittime. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il Papa in visita nell'ex Birmania. Una visita storica, la prima di un papa nel paese, e una parola che non si può pronunciare, Rohingya, che indica la minoranza musulmana perseguitata e non riconosciuta in Myanmar. Papa Francesco è atterrato nella capitale dell'ex Birmania, accolto da un ministro del presidente, da vescovi birmani, da un centinaio di bambini. Fuori, centinaia di fedeli ad attenderlo, in quello che è un evento storico per il paese. Oltre ai capi religiosi e alle massime autorità, il papa avrà un colloquio con la consigliera del governo e premio Nobel per la della pace Aung San Suu Kyi, occhi puntati soprattutto su quanto si diranno sulla gestione della crisi della minoranza Rohingya. Da fine agosto l'esodo dei profughi verso il Bangladesh ha causato una vera emergenza umanitaria. Tutti attendono di vedere adesso se il pontefice pronuncerà o meno la parola Rohingya, che i vescovi birmani gli hanno chiesto di non nominare mai durante la visita. Il gruppo etnico di religione islamica non ha infatti riconosciuto quale minoranza all'interno del paese. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo in Giappone, trovati 8 cadaveri su una barca alla deriva, forse sono nordcoreani. A metà del mese furono le immagini del soldato nordcoreano in fuga verso la Corea del Sud sotto i colpi dei commilitoni a fare il giro del mondo. Poi è stata la volta di 8 pescatori arrivati in Giappone in barca, vivi, nella prefettura di Akita. Raccontarono di aver avuto dei problemi, di essere stati costretti ad attraccare. Una storia credibile, secondo le autorità nipponiche, che del resto sono abituate a dover prestare soccorso a vecchi pescherecci nordcoreani in difficoltà. I tentativi di fuga verso il Giappone invece sono piuttosto rari. Ora però l'arrivo di questa barca nella stessa prefettura di Akita, con 8 cadaveri a bordo in avanzato stato di decomposizione, comincia a preoccupare. L'imbarcazione di 7 metri era chiaramente alla deriva, senza carburante, né elica o strumenti di bordo. Non c'era attrezzatura per la pesca né niente che ne riveli chiaramente la provenienza. Si parla di un pacchetto di sigarette nordcoreano rinvenuto su un corpo. È un indizio, non una prova, ma sufficiente a destare attenzione. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo al calcio. Adesso è stata una giornata, è una giornata quella di oggi, di esoneri, a partire da quello di Vincenzo Montella, che quindi lascia il Milan. Carlo Genta, sostituito da un uomo che non ha un grande track record, per così dire, come allenatore, che è Rino Gattuso. No, non ha un grande track record, come dici tu, in perfetto British, ma ha un grande passato al Milan. È già in casa Milan perché allenava la primavera da questa stagione, e dunque Rino Gattuso è il nuovo allenatore del Milan al posto di Montella, la cui posizione onestamente anche dopo lo 0-0 in casa di ieri stava diventando difficilmente difendibile. Ricordiamo che insomma tra big match, quindi confronti con le grandi o altro, il Milan non vince in casa dal 20 di settembre, siamo alla fine di novembre, fai due conti. È chiaro che la classifica piange a dirotto, è chiaro che probabilmente, anzi certamente, il treno della Champions League è già scappato. È altrettanto chiaro che serviva un'inversione di rotta, di tendenza, almeno emotiva, e credo che Gattuso fosse l'unica scelta praticabile. Adesso la grande domanda è quella relativa al futuro del Milan, ma ora è troppo presto, meglio guardare al futuro immediato. Con Gattuso su quella panchina e Montella che ha messo, ho fallito, mi ha mandato via. Non gli va nemmeno male, perché la settimana prossima c'è il Benevento, quindi tutto sommato c'era Torino, che è una signora squadra, a San Siro è stato uno 0-0, poi con tutte le giustificazioni del caso, Kalinic che ha sbagliato diversi gol eccetera eccetera, possiamo dire che il calcio è un gioco fatto di episodi, però i risultati sono lì da vedere e il Milan è insomma lontanissimo dalle posizioni che contano. Via anche l'allenatore del Sassuolo, no? Via anche Buchi, allenatore del Sassuolo, che insomma paga un pessimo inizio di stagione. A sottolineare, a contrario, l'importanza di Di Francesco, che sta facendo benissimo con la Roma. Era importante per il Sassuolo e si vede anche, ed è importante per la Roma e si vede anche da questi risultati. Via Buchi, dentro Iachini. Anche lì probabilmente serviva una scossa di corrente. Non credo che Sassuolo finirà per rischiare molto dal punto di vista della battaglia salvezza, però certamente rispetto alle ultime non sta giocando una stagione da ricordare, non sta giocando una stagione memorabile. Quanto al resto, ieri abbiamo visto la Juventus vincere 3-0 col Crotone ieri sera, ma cosa abbastanza scontata, che nulla toglie, nulla aggiunge al momento della Juventus. Venerdì c'è Napoli Juventus, ed è quella la partita che conta, quella la partita che farà testo. Il Napoli vince 1-0 a Udine facendo fatica e con un rigorino, però è così che fanno le grandi squadre. L'Inter tira il passo, e questo lo sapevamo già da sabato sera nel segno del Super Icardi. la Roma paga la follia di De Rossi e fa 1-1 a Genova con il Genoa, perde un po' di terreno. Questo in estrema sintesi il riassunto della domenica. Domenica sulla quale ovviamente torneremo a partire dalle 14 in tutti i convocati, e grazie intanto a Carlo Genta, è là che poi lo ritroviamo. A chiudere, andiamo a Londra perché è arrivata la notizia tanto attesa soprattutto ai britannici, il fidanzamento ufficiale del principe Harry. Giorgia Scaturro, ciao, buongiorno. Buongiorno a voi. Ebbene sì, il fidanzamento addirittura sarebbe avvenuto all'inizio del mese, come il trasferimento dei due cagnolini della futura signora Wales a Londra aveva forse lasciato un po' intendere. Però diciamo che in questi ultimi giorni anche i bookmaker si stavano davvero scatenando tanto, quindi questo non ha comunque guastato troppo l'effetto sorpresa di questo annuncio ufficiale arrivato in uno lunedì piovoso da Clarence House, la residenza ufficiale di Sua Altezza il principe Charles, il padre dello sposo. Ebbene, il principe Harry V in linea al trono sposerà l'attrice americana di Suits Meghan Markle, la sua ragazza, dall'estate del 2016. La coppia si sposerà nella primavera del 2018 e probabilmente a maggio, dicono i bookmaker, e andrà a vivere a Kensington Palace accanto ai cognati William e Kate. Finalmente anche Harry dunque ha trovato la sua Cenerentola non di sangue blu, sua cugina di lontanissimo grado e sicuramente un'aggiunta molto particolare alla monarchia britannica. Meghan ha 36 anni, 3 anni più di Harry, è americana, è divorziata, come del resto anche Charles, di razza mista, discendente da una schiava della Georgia, e come Harry è impegnata in progetti umanitari. Una favola davvero moderna in cui il regno ha cominciato a credere a settembre, quando la Markle, che ha sbaragliato tutti gli attacchi, ha dichiarato candidamente ad una rivista: siamo solo due persone molto felici ed innamorate. Ebbene, 70 anni fa il matrimonio della regina Elisabetta, che ha risollevato un po' gli animi della nazione, oggi il regno è un po' più in rosa dopo il grigiore di Brexit e terrorismo. Tra poco i fidanzatini appariranno per le foto ufficiali, in serata le prime interviste, e poi si potranno veramente cominciare a sbizzarrirsi o a puntare anche, se volete, sui dettagli di questo matrimonio che davvero potrebbe essere l'ultimo vero matrimonio reale. Grazie a Giorgia Scaturro da Londra per questo racconto. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro Giro d'Italia che ci porterà a Savona, la città, o meglio la provincia, che è peggiorata di più nella classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore, a Ostia per il nuovo agguato, e poi questa vicenda di un blog che è stato fatto chiudere per incitamento all'anoressia, una madre che ha denunciato, e un fenomeno non recente a dire il vero che però risulta in crescita. Effetto giorno. Effetto giorno è il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della manovra, dello scontro politico sulle cosiddette fake news, della classifica sulla qualità della vita, sulla quale torneremo tra un attimo, del doppio esonero in Serie A, del viaggio del Papa in Birmania e del vulcano a Bali che sta eruttando e crea qualche preoccupazione. Adesso appunto iniziamo il nostro Giro d'Italia. Iniziamo parlando proprio della classifica della qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore. Una piccola precisazione, lo dico subito all'ascoltatore che chiaramente molto incattivito politicamente ci dice: vi siete scordati di dire che Roma è passata, è salita di posizioni, siete uno scandalo giornalistico. In realtà no, Roma è scesa, ha perso 11 posizioni secondo la classifica del Sole 24 Ore come complessiva qualità della vita, e si trova per l'esattezza al 24esimo posto. Ma le province che hanno perso più posizioni si trovano in Liguria. Si tratta di Genova, che ha perso 27 posizioni, e addirittura Savona, che ne ha perse 34. Noto con piacere l'ascoltatore via SMS che ci scrive e dice: chissà se a Sappada, il comune che è appena passato dal Veneto al Friuli Venezia Giulia, lo sanno che la provincia di Belluno è il posto dove si vive meglio in Italia, dove la qualità della vita è più alta. La Liguria dunque. E siamo in linea con Ilaria Caprioglio, che è sindaco di Savona, che torna ai nostri microfoni. Buongiorno Caprioglio, bentornata. Buongiorno, grazie. Ma che cosa è successo a Savona? Cosa è successo? Cosa è accaduto? Beh, allora, leggiamo proprio in due minuti i dati correttamente. Noi abbiamo perso moltissime posizioni, 34, per la giustizia e sicurezza, e mentre siamo posizionati molto bene, per esempio al 13esimo posto in cultura, tempo libero e tutto ciò che riguarda la sostenibilità ambientale. Ma questi dati afferiscono al 2016. E quindi i primi sei mesi del 2016 e poi i secondi sei mesi che sono quelli in cui si è insediata la mia amministrazione. Io in campagna elettorale ne avevo fatto un cavallo di battaglia del problema della sicurezza della città di Savona e questi dati me lo hanno dimostrato. Però nella seconda metà del 2016 abbiamo iniziato ad affrontare il problema. In sinergia con la prefettura abbiamo posto in essere ad esempio controllo del vicinato, un protocollo con i privati per le telecamere, un DAS urbano, incontri per prevenire truffe informatiche. Cosa è accaduto dopo questi primi sei mesi di nostra amministrazione, gli ultimi del 2016? È accaduto che i nuovi dati dal 1 gennaio 2017 al 31 ottobre 2017 forniti dalla prefettura ci parlano di un calo dei delitti in generale del 7,55%, dei furti in generale del 13,11%, delle rapine in generale del 34,29% e delle truffe informatiche che erano quelle che erano sempre alte a Savona del meno 6,80%. Quindi abbiamo un calo per quanto riguarda il 2017 fino al 31 di ottobre e ricordo che è stato fatto il raffronto dalla prefettura con i dati da gennaio al 31 ottobre 2016 proprio per non falsarli. Vuol dire che abbiamo lavorato bene. I segnali ci sono. Ricordo tra l'altro agli ascoltatori appunto che poi si comprassero il Sole 24 Ore perché c'è la classifica scomposta per città e per trovare le loro città. Effettivamente Savona, per quanto riguarda il tema della sicurezza, è al 97esimo posto, ovviamente basandosi su quei dati. Considerate che le ultime in classifica per sicurezza sono soprattutto grandi città come Milano, che è l'ultima in assoluto, Roma, che è la penultima, e poi ci sono Bari, Caserta, Firenze, Bologna e via dicendo, e quindi è in una posizione molto pesante. Allora, facciamo così, noi ci risentiamo l'anno prossimo a questo punto, perché appuntamento fra un anno. Io desidero ringraziare comunque la prefettura con la quale abbiamo sempre lavorato bene, che prontamente mi ha contestato i dati, perché io ho detto, cazzo, abbiamo lavorato in questo primo anno e mezzo di mandato, lavorato proprio sulla sicurezza e questi dati mi hanno spiazzato. Però leggendoli in modo corretto, cioè che sono dati del 2016 e poi parametrati ai dati del 2017 fino al 31 ottobre, diciamo che un meno 100% di furti nelle banche, un meno 38% di rapine nelle pubbliche vie, un meno 57% di rapine negli esercizi commerciali. Insomma, sono i segnali sono buoni. Allora, vedremo cosa succederà l'anno prossimo, se la classifica del Sole 24 Ore le darà ragione. Grazie, sindaco, per essere stata con noi. Ilaria Caprioglio, sindaco di Savona, la ringrazio. E andiamo in un posto dove la sicurezza è decisamente più complicata, ossia a Ostia, dove, come sapete, ci sono stati nuovi spari dopo l'agguato della settimana scorsa, del quale lungamente abbiamo parlato. Sembra che questo post elezioni nel municipio di Roma sia particolarmente caldo. Mauro Evangelisti è cronista del Messaggero, sta seguendo tutte le vicende. Mauro, grazie per aver accettato il nostro invito, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Che quadro sta emergendo? Perché abbiamo letto di ipotesi anche sul vostro quotidiano, no? Di nuove lotte fra clan, che cosa succede? Beh, è molto complicato descrivere ciò che sta avvenendo a Ostia. Ciò che sorprende è il fatto che al termine del commissariamento, dopo elezioni in cui c'è stata l'attenzione di tutti i media, ma anche del ministro degli interni che aveva mandato più uomini a Ostia, i clan hanno ricominciato a sparare senza problemi, sembra. Cioè sono tornati ad esempio giovedì scorso, due uomini sono entrati, un uomo è entrato dentro una pizzeria e ha sparato a due uomini, uno di questi, uno dei feriti, era un parente del potente clan Fasciani. Sì. E trascorrono poche ore e sabato sera avviene un'intimidazione dentro il fortino, così l'abbiamo definito, di Via Forni, questa strada dove ci sono le case popolari, dove vive un altro clan, gli Spada. E ci sono state due intimidazioni, spari contro la porta, sprangate. Ecco, è sorprendente che questo avvenga mentre su Ostia non c'è mai stata tanta attenzione, sia da parte dei media, sia da parte dello Stato, delle forze dell'ordine. Sì, in genere la criminalità in questi casi tende a rimanere più sotto traccia, esattamente per questo motivo, no? più sto sotto traccia, meno mi rompono le scatole, meno mettono uomini sulle strade. Questo è un po' il concetto. E quindi il ragionamento che fai tu, dice, è sorprendente, no? È corretto. Mi dici, Mauro, appunto, che cos'è una lotta tra clan? È qualcosa che ha a che fare con quello che sta avvenendo in politica? Si fanno due tipi di ipotesi, almeno noi ne abbiamo fatte due. La prima è, visto che i coinvolti in questi primi regolamenti di conti sono Fasciani e sono Spada, e si tratta di due clan che fino ad oggi storicamente sono stati alleati, anzi gli Spada erano in qualche modo il braccio operativo dei Fasciani. Allora quello che avviene nella pizzeria in cui si spara a un Fasciani potrebbe far pensare a uno scontro fra i due clan, che questa alleanza si sia rotta, tant'è vero che poi sabato sera c'è l'intimidazione proprio negli appartamenti dei due esponenti del clan Spada. Però c'è un'altra valutazione che stanno facendo gli investigatori, che forse ritengono più realistica, è che ci sia in realtà una terza organizzazione che stia tentando di prendere il controllo del territorio e che stia approfittando di questa fase di debolezza che stanno vivendo i due clan. Perché tanto gli Spada, abbiamo visto l'arresto di Roberto, no? Che è stato per l'aggressione al giornalista della Rai, e tanto i Fasciani sono stati investiti da una serie di processi, il loro boss è stato condannato, quindi entrambi i clan si trovano in una situazione di debolezza anche con l'attenzione delle forze dell'ordine su di loro. Quindi una terza organizzazione che in qualche modo anche espressante dell'esigenza di mantenersi sotto traccia, anzi decide di uscire allo scoperto e colpisce in modo così evidente. Ovviamente gli affari che interessano sono quelli soprattutto dello spaccio della droga, dell'estorsione, dell'usura, e Ostia è comunque una piazza importante anche perché gravita vicino all'Eur, dove ci sono i locali notturni, dove la droga, come tutti sappiamo, all'esterno dei locali viene venduta. Ecco, questo scenario chiaramente rende tutto più complicato. Più complicato. Allora, Mauro Evangelisti, cronista del Messaggero, io ti ringrazio per questa testimonianza e questo racconto. Io nel salutare la dottoressa Laura Dalla Ragione, che è responsabile del Centro Disturbi del Comportamento Alimentare Palazzo Francisci di Todi, che è un centro di eccellenza in questi temi. Buongiorno, dottoressa Dalla Ragione. Io purtroppo le devo dare a questo punto appuntamento ad un altro giorno, perché la nostra puntata del lunedì è un po' più corta. Evidentemente ho calcolato male io i tempi, quindi me ne prendo tutte le colpe. Il tema era, i nostri ascoltatori lo sanno, questa vicenda di una mamma di Ivrea che ha scoperto che la figlia stava seguendo i consigli di uno di questi blog pro-ana che sono spingono, per così dire, all'anoressia, al disturbo alimentare per perdere peso, che non sono un fenomeno nuovo ma che stanno avendo particolare diffusione evidentemente in questo periodo, e questo blog è stato chiuso. Avrei voluto aver tempo di parlarne con lei, però proprio perché i tempi nostri sono stretti e questo argomento merita un po' più di larghezza, di diffusione, non riusciamo. Magari proviamo a sentirci domani, e le chiedo scusa, dottoressa Dalla Ragione, e la ringrazio per la pazienza. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi abbiamo giusto il tempo per un paio di saluti alla fine. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: nella manovra sono stati stanziati 60 milioni in 3 anni per chi si prende cura dei familiari con disabilità o non autosufficienti, sconto per tasse e affitti delle librerie. Nel scontro sulle cosiddette fake news, BuzzFeed e New York Times sono stati imbeccati da Renzi, dicono i 5 Stelle. Qualità della vita, Belluno la migliore, balzo di Ascoli Piceno, caduta verticale per le città liguri. Doppio esonero in Serie A, il Milan manda via Montella per Gattuso, il Sassuolo cambia buchi con Iachini. Fidanzamento nella casa reale britannica, e risposerà l'attrice americana Meghan Markle in primavera. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, come sapete la puntata del lunedì è un po' più corta, adesso andremo a sentire il nostro Mario Platero con America 24, poi ci fermeremo, ci saluteremo e dalle 13.45 ci sarà la nostra rubrica Autotrasporti curata da Andrea Ferro. Dunque, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.